ah, io mi dovrei presentare, dici poco cazzo. Hai ragione. Allora, io je suis Mimi Sterrantino. Sterrantino. Sterrantino, per non fare. E vengo dalla Sicilia orientale, esattamente da Castelmola, che è vicino Taormina. Perfetto, perciò fino a qua ci siamo. Sì. Quindi oggi mi sono preso il traghetto e sono arrivato qui a Gallico, al Cartella, che festeggia questi, beh, come possiamo dire, bellissimi 8 anni, dai, di fatica anche, credo, però di grandi soddisfazioni. E quindi io torno qui dopo 2 annetti di latitanza. Diciamo che tu sei nato qua. Voglio dire, anche, lo possiamo dire. Con la chitarrina da solo mi sono presentato una volta, che dicevamo per caso, perché ci doveva essere il concerto degli Accura, e mi hanno detto a me: guarda, noi non ci possiamo andare, vacci tu, va bene, a un inni. E quindi, e ti ricordi tutte le discussioni? Sì, mi ricordo che prima del concerto erano tutti incazzati. Già se la volevano scontare un po', come no, ma sono stati grandiosi. Anche una bella serata, ma belle conoscenze che ancora restano. E già. Visto che Mimì si è presentato, ecco. Mimì. Oh. Cioè, questa è una radio seria. Uh-huh. Cioè, noi stavamo parlando del concetto di repressione. Proprio l'argomento? No, nel senso che, visto le discussioni che c'erano state in assemblea, a un certo punto è uscito fuori questa cosa che ci veniva voglia di parlare. Allora, dire come? Allora, ti spiego. Vai, ecco, spiega. Cercavo di lanciarti l'input, ma te la spiego. Cioè, c'è una cosa che a me mena proprio sui coglioni da un po' di tempo. Vero? E la cosa che mi mena più sui coglioni è: perché io mi devo preoccupare di dire che sono un antifascista, un antirazzista e un antisessista? Ma perché ti preoccupi? No! Allora, però minchia, c'è gente che si pone un problema che non lo può dire. Ma voglio dire, io non avevo mai pensato a questa cosa, sinceramente. Quindi, boh, mi cogli impreparato. Ma com'è che si pone il problema? Qualcuno si pone il problema. E quindi si devono aiutare. È come. E come ci spiegamo? Diciamoglielo, non è assolutamente un problema, anzi. Voglio dire, coltivate quest'odio. No, vabbè, l'odio, voglio dire, può far male. Però, insomma, le antipatie ci sono, e ci sono anche i motivi. Quindi, voglio dire, antifascisti, assolutamente. Cioè, sai ultimamente che mi è venuto in mente? Di fare una proposta al collettivo della radio. Siccome ho scoperto che all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ci si può iscrivere a prescindere dall'età, no? Basta che dichiari di essere antifascista. Beh, hai visto? No? Allora, mi era venuto in mente di dire: chi vuole fare parte del collettivo della radio si deve iscrivere all'AMPI. Oh, hai visto? Ci puoi dire? Non è male. Sì, assolutamente. Guarda, una bella dichiarazione scritta. Il problema sai dove sta? È che lo puoi dire, ma puoi farlo? Boh, prova. Cioè, non guardare me, nel senso che sono come te, che viene naturale. Tu devi pensare a chi non gli viene naturale, glielo devi spiegare come una cosa naturale. Guarda, naturalmente uno è antifascista perché ci sono i fascisti, giusto? Quindi c'è chi ne è a favore e c'è chi ne è contro, ma devo dire chi è contro, insomma, deve essere contro, deve essere convinto, no? E allora, scusa, e quindi, insomma... Cioè, lo vedi quanto è difficile spiegarlo? Ma chi... Come gli spieghi una cosa del genere? No, effettivamente, guarda, veramente mi hai spiazzato. Potremmo fare... Ma voi, cioè, oggi avete parlato, giusto? Avete discusso di questa cosa, quindi... Ma no, che... no. Discorso di resistenza. Di resistenza, certo. Comunque questa cosa l'avete toccata un pochettino. No, completamente, quindi me lo stai dicendo, sì, a me. Cioè, stai scusando me. Sì. Ho capito. Guarda, allora facciamo una cosa. Domani facciamo tutti insieme una perché io, guarda, avrei bisogno di pensarci, no? Va bene, va, stiamo andando veramente. Ma rispondi. Ma perché questa cazzo di domanda la devono fare tutti a me? Io non la posso fare mai a nessuno. No, perché? Quindi tu mi stai chiedendo come spiegare alla gente, sì? Che cazzo vuole dire essere un antifascista, un antirazzista e un antisessista. Non nel senso che non fai sesso. No. Nel senso che hai rispetto. Ecco. Allora, ci vuole una buona dose di non televisione. E soprattutto che, ecco, già non si sta capendo una mazza. Ciccio, ecco, è un delirio. Ma è questo il bello, devo dire. Quindi, devo dire, evitiamo la televisione. Pigliamoli in azzappa. E un in azzappare. Ecco, non si capisce il filo del discorso. Giustamente, perché non lo sto capendo neanch'io. Ma perché non c'è un filo di discorso? Perché se no non avrei parlato con Mimì Starantino. Ecco, grazie. Perché per presentare Mimì Starantino tu non devi avere un filo di discorso. Oh. Lo devi portare nel non discorso. Come dire, il non senso ha un senso. Ecco. È un piacere. Mimì, di che cosa parliamo? Di che cosa parliamo? Di che cosa abbiamo parlato più che altro? Questo? No, sinceramente, adesso. Ecco, già cancellaste espressione. Adesso. Adesso. Mimì Starantino. Sì. Un povero paccio. Ma, mica vemmo, perfetto. Che? Continua ad andarsene, tipo menestrello, per le strade, per le situazioni. Anche. Per il semplice piacere di esprimere un sorriso. Yeah, yeah. Dici, ma Cuga... No. Vai, vai. No, non è cucazzo tu faccio fare. Mi spieghi come ci venimo a ridere in una situazione del genere. Come cazzo fai a ridere? Ma come? Neppure è vero questo. Però sai, aiuta. Ridere e sorridere. Andiamo a fare. Io però devo dire che trovo soddisfazione nel suonare in giro e far sentire un po' come la penso riguardo certe situazioni che ci sono nel mondo. E come sorrido, Mizzi, come sorrido. È bella la gioia. Ma a disperazione... Cioè uno dice, uno ride per non piangere. Ecco, ma non l'ho detto, ma era un po' così. Sì. Eh sì, Ciccio. come a dire. Di cosa vorresti parlare? No, non so. Vai. Potresti essere tu a intervistare me a questo punto. Ecco, per esempio, Ciccio, io ti volevo chiedere un po' com'è la situazione la situazione del cartel in questo periodo, perché la disperazione c'è, giusto? Riguardo la politica del luogo. Ma voi come caspita fate, cioè, a resistere così, ad essere uniti? Perché queste cose in Sicilia succedono davvero di rado. E a me mi sorprende davvero questa realtà. Ed è sempre un piacere tornarci. Vuoi che ti rispondo sinceramente? Però, ecco, Abbassami mi! Allora, ti rispondo sinceramente. Sì, dai, va. Allora, devi sapere una cosa. 8 anni fa... quando questo posto è stato occupato, prima che venisse occupato, ci sono state comunque tutta una serie di riunioni, sai, tutto. E devi sapere una cosa, quel giorno quando è stato occupato io non ero qua, pur avendo partecipato a tutte quelle riunioni, perché stavo facendo una trasmissione radiofonica e mentre andavo in radio io via telefono mi sono, perché allora l'unica cosa per fare una cosa del genere, pagava la radio, chiamavi un cellulare e facevi la diretta, no? E praticamente dalla radio in cui trasmettevo ho fatto la diretta dell'occupazione. Il giorno dopo il proprietario della radio, che devi sapere che abitava qui di fronte e che aveva visto quella festa e sentendosi la mia trasmissione, pure se perché gli piaceva e non ne poteva fare a meno, però aveva visto e praticamente aveva visto tutte le bandiere rosse. Il giorno dopo, quando sono arrivato in radio, mi ha detto: non me te permetti più di fare una cosa del genere con tutti di bandiere rossi. No, inizia, io è proprio colto. E praticamente, no? Io ora mi ritrovo dopo 8 anni a parlare. Con te. E lui non ci può dire niente. Nessuno può più dire niente. Nessuno ci può dire niente. E ci siamo di persona. Ti basta come risposta? Perché no? Questa è anche la risposta a chi si preoccupava. A chi si preoccupava? Si preoccupava che io potessi rispondere. Un saluto a mio figlio. Video, vedi quello che mi ha. Rispondi. No, è andata bene. La risposta. Bene. Quindi abbiamo deciso a che ora si parte? Non lo so, ti volevano, cioè che gli dovevi fare sapere. Sì? Dare, e allora sai che una fai sistemata. Oi, Fevo! manda la musica. Va bene, ragazzi, a dopo.